vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos hundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Santino. ¡Vámonos! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. No pasará. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. Luchamos para vencer. No pasará. E quindi andiamo a vedere cosa, che dati, che notizie, che prospettive ci vengono fornite da questo Atlante, che vi ricordo potete consultare e scaricare gratuitamente da internet. Trovate il collegamento al sito da dove si può scaricare, dal nostro sito, al sito del Comitato Carlos Fonseca, che si trova all'indirizzo comitatocarlosfonseca.noblogs.org. come ho già detto, e come ho scritto anche sul sito, è un atlante fatto dal Dipartimento per l'Ambiente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e quindi appunto, se c'è qualcosa da criticargli, è forse il non tirare le dovute somme, vedendo ciò che ha prodotto questo modello di sviluppo capitalista, dicendo appunto questo è queste crisi ambientali sono dovute al modo in cui le multinazionali, le imprese nazionali che esportano sui mercati internazionali stuprano e violentano il territorio dell'America Latina. Paradossalmente questo Atlante è patrocinato, sponsorizzato proprio dalla USAID, l'agenzia controllata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, se non addirittura dalla CIA, che così spesso in America Latina è stata protagonista di interventi contro, a favore di determinati governi, governi che naturalmente o erano alleati e quindi la USAID era a favore di essi degli Stati Uniti, o erano contro e quindi è intervenuta attivamente, come nel caso del colpo di Stato in Venezuela del 2002, per destabilizzare il governo al potere, che è un governo che non voleva far coincidere la propria politica con quella degli Stati Uniti. Ma questo naturalmente non può che essere una riprova del fatto che le cose che dice questo Atlante non sono vaneggiamenti di estremisti, come potrebbe pensare chi sentisse il nome del comitato Carlos Fonseca, ma quindi quelli che ci sono dati reali, o quantomeno una minimizzazione della realtà, di sicuro non una lettura estremista. E noi vi consigliamo comunque di andarvelo a vedere, perché oltre a grafici, a dati interessanti, analisi di portata generale, ci sono delle foto satellitari molto molto interessanti, perché mostrano lo stesso territorio a distanza di qualche decennio, mostrano quindi il cambiamento in peggio, purtroppo, il cambiamento provocato in quel territorio dalla deforestazione, dallo sfruttamento minerario, dall'inquinamento, dal riscaldamento climatico, nella misura in cui dei ghiacciai si sono ritirati, dei laghi sono diminuiti d'estensione e così via. Noi in queste puntate invece vedremo, sempre traendo spunto dall'Atlante, un po' la situazione climatica, la situazione ecologica nei vari paesi dell'America Latina, affrontando la questione dal punto di vista di alcune macro aree, diciamo. Per esempio, oggi parleremo del Cile, dell'Argentina, dell'Uruguay, che si trovano all'estremo sud dell'America Latina. Sono anche dei paesi che rispetto al resto del Sud America, del Centro America, dei Caraibi, hanno una situazione economica più vicina alla nostra, anche se producono grandi quantità di materie prime e di prodotti agricoli per il mercato internazionale, quindi anche loro sono dipendenti dalla nostra economia, sono sfruttati dalla nostra economia, e vedremo che anche lì, in ogni caso, proprio per queste ragioni economia votata all'esportazione, ci sono delle situazioni drammatiche dal punto di vista ecologico. E incominciamo proprio dal Cile, un paese di 17 milioni di abitanti, il 40%, addirittura il 40% concentrati nella regione di Santiago de Chile, che occupa solo il 2% della superficie del paese. Quindi una grande urbanizzazione, un fenomeno che c'è in tutta l'America Latina, ma in Africa e in Asia, nei paesi meno ricchi, una grande urbanizzazione, che significa infatti povertà, perché significa che la gente che vive nelle campagne non riesce a mantenersi, perché non c'è terra disponibile. Paradossalmente la terra c'è, ma naturalmente viene incamerata da grandi proprietari, e le ricchezze vengono concentrate nelle mani di una ristretta oligarchia. Quindi la popolazione è costretta a migrare in città, spesso vive in delle grandi baraccopoli ai margini di queste megalopoli. Pensate che Santiago oggi ha 6 milioni di abitanti, più di qualsiasi città italiana, mentre tutto il paese vivono 17 milioni di persone, che è meno di un terzo della popolazione italiana. Ma questo si vede, come dicevo, in tutti i paesi dell'America Latina. Il Cile, come voi sapete, è un paese che si estende per lunghezza per moltissimi moltissimi chilometri, 4.200, e quindi cambia anche clima e ambiente a seconda della, della latitudine alla quale che viene considerata. Si passa dai deserti aridi del nord al clima temperato del centro, al freddo piovoso del sud. Come dicevo, l'economia del paese si regge sull'esportazione. Pensate che addirittura il 35% del prodotto interno lordo, quindi della ricchezza scambiata all'interno del paese, è ricavato dall'esportazione, soprattutto di rame, un minerale di cui è tra i primi produttori al mondo, di legname, di pesce e di prodotti agricoli. L'Atlante, dalla quale traiamo questi dati, fa anche un bilancio dei progressi realizzati verso gli obiettivi del millennio, che erano degli obiettivi che le Nazioni Unite avevano stabilito per tutti i paesi, degli obiettivi di riduzione della povertà, di riduzione di espansione dell'educazione, del sistema sanitario, che naturalmente non sono stati raggiunti da nessuna parte, che sono appunto sono stati la solita trovata propagandistica sull'onda dell'euforia per il passaggio di millennio. E appunto anche qui si vede come addirittura in alcuni casi, come nel caso delle emissioni di anidride carbonica, la situazione è anzi peggiorata, ma è peggiorata in quasi tutti i paesi del mondo. Nonostante la popolazione sia aumentata, è aumentata anche la produzione di anidride carbonica pro capite, che è quasi raddoppiata, è passata da non vi sto a dire le cifre, tutte queste cifre comunque le potete trovare sull'Atlante, perché è grave il fatto che sia aumentata la produzione di anidride carbonica, perché l'anidride carbonica è uno di quei gas chiamati gas serra che contribuiscono al riscaldamento del pianeta, perché bloccano i raggi solari che arrivano sulla Terra, non li fanno rimbalzare lì e quindi provocano un aumento della temperatura sulla Terra. E perché consideriamo pericoloso un aumento di temperatura sulla Terra? Perché porta alla desertificazione di una serie di territori che invece prima erano vivibili, si poteva coltivare, c'erano foreste dalle quali poter trarre importanti prodotti come legname e farci vivere degli animali, eccetera. E tutte queste zone soffrono il riscaldamento globale e vengono desertificate. Poi il riscaldamento globale provoca lo scioglimento dei ghiacci, che sono un'importante riserva di acqua dolce che serve non solo all'uomo, non solo all'agricoltura, ma serve al mantenimento dell'equilibrio di tutto l'ecosistema. Se si toglie un tassello, tutto il sistema crolla. E lo stesso Atlante ci dice come ad aver un impatto ambientale devastante sono soprattutto l'attività mineraria e il taglio del legname, quindi due cose che sono evidentemente finalizzate all'esportazione, perché il legname e il rame prodotto in Cile vengono venduti sul mercato internazionale, vengono comprati in Europa, negli Stati Uniti, e vengono utilizzati per mantenere alto il nostro livello di vita. È inutile che l'Italia, gli Stati Uniti, la Germania, il Giappone si battono per il rimboschimento e dicono che in questo modo favoriscono il mantenimento di un ecosistema equilibrato, perché poi vanno a comprare legname che non tagliano nelle loro foreste in Cile, causando dei drammi ecologici in quei paesi. Cioè, come per il lavoro, quando invece di sfruttare o di non poter sfruttare i lavoratori italiani in Italia, si va a delocalizzare delle imprese in Asia, così da mantenere basso il costo del lavoro. Allo stesso modo, in questo modo si delocalizza l'inquinamento, il taglio del legname e la devastazione ambientale. Questo perché l'estrazione mineraria condotta sia da grandi imprese o da piccoli minatori, dice, non è importante, perché entrambi utilizzano una tecnologia arretrata che provoca l'inquinamento delle falde acquifere, ossia dei fiumi sotterranei che poi sboccano nelle sorgenti oppure dai quali attraverso dei pozzi si tira fuori l'acqua che serve alla popolazione per nutrirsi. Un sovraconsumo di acqua, perché nei processi di estrazione, di raffinazione del minerale serve l'acqua. Pensate, noi pensiamo a volte che spegnendo il rubinetto quando ci si lava i denti facciamo un grandissimo gesto per non sprecare l'acqua, però l'80% dell'acqua non viene utilizzato da noi che ce la beviamo, non viene utilizzato per nutrirsi, ma viene utilizzato dalle industrie. Quindi se il problema sta lì, sta nel modello economico, nel modello di sviluppo capitalista, non sta nel risparmiare un litro di acqua al giorno non spegnendo il rubinetto. Certo, anche quello è un gesto importante, però se poi uno va in vacanza ogni weekend in una diversa capitale europea utilizzando grandi quantità di petrolio per far andare l'aereo che prende a Ciampino, diciamo che il costo ambientale viene aumentato esponenzialmente, non viene compensato dal rubinetto che viene spento quando ci si lavano i denti. Dell'industria del legname in Cile abbiamo già avuto modo di parlarne trasmissioni fa, quando parlavamo dei Mapuche, perché questa comunità indigena del sud del Cile si batte proprio contro il disboscamento delle foreste nelle quali vivono da secoli, foreste che spesso vengono disboscate per far posto a colture estranee a quel territorio, come il pino, come l'eucalipto, che vengono venduti più facilmente sul mercato internazionale. Ma come dice questo stesso atlante sponsorizzato da l'USAID, poi creano degli squilibri all'interno dell'ecosistema originale. I Mapuche, come appunto abbiamo ricordato mesi fa, sono affrontati dallo Stato cileno con la militarizzazione del loro territorio e con processi dove vengono accusati di terrorismo quando quello che fanno sono atti di sabotaggio contro i macchinari, contro gli automezzi, contro gli stabilimenti che sfruttano il legname dei loro territori, e per questo vengono accusati addirittura di terrorismo. Quindi anche in questo caso vediamo come questa accusa ormai serva sempre di più per criminalizzare ogni dissenso, ogni protesta, ogni forma di critica a questo modello di Stato, di economia, di società. Tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando. Come dicevo, gli effetti dello sviluppo incontrollato creato dal capitalismo si possono facilmente vedere nella diminuzione dei ghiacciai, indispensabili per rifornire d'acqua ai fiumi in primavera, che in Cile ricoprono un territorio grande quanto la Sardegna. Quindi avevamo detto che il Cile era un paese grande più o meno quanto l'Italia, calcolate il doppio dell'Italia, credo, calcolate un territorio grande come la Sardegna ricoperto di ghiacciai in Cile, un'importantissima riserva di acqua dolce. E uno studio compiuto nel 2006 ha appunto potuto purtroppo verificare come ben l'87% dei ghiacciai aveva subito evidenti diminuzioni a causa dell'aumento della temperatura e della diminuzione delle precipitazioni. Questi sono fenomeni che, dice l'Atlante, sarebbero comunque avvenuti, ma sono stati aggravati dal riscaldamento globale. E questo si può appunto vedere in quelle foto satellitari di cui vi parlavo. Ce n'è proprio una del ghiacciaio Higgins, che nel XX secolo ha perso ben 14,6 chilometri di estensione proprio a causa di questo aumento delle temperature. Lo haremos tú y yo. Nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. ¿Y dónde el amor? Un grito escondido, millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos, por luz la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada. Triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de la... E passiamo all'Argentina, dove appunto i problemi sono molto simili al Cile, si trova solo dall'altra parte delle Ande, anzi i problemi sono più gravi anche per la diversificazione maggiore della sua economia, ma soprattutto per il grande impatto che l'agricoltura ha avuto sul suo territorio, un impatto devastante sul suolo, sulle foreste, e che anche in questo caso è motivato da una produzione agricola finalizzata all'esportazione. Anche qui si producono grandi quantità di alimenti che servono a nutrire le persone del primo mondo o gli animali che comunque poi servono per nutrire le persone del primo mondo. Anche qui c'è una grande urbanizzazione, il 70% dei 40 milioni di argentini infatti vivono in città con più di 100.000 abitanti. Anche qui il bilancio di questi obiettivi del millennio è stato abbastanza negativo, anzi addirittura peggiore che in Cile, visto che almeno in Cile, forse solo perché appunto si era sviluppata questa industria del legname, l'estensione delle foreste era leggermente aumentata, mentre in Argentina dal 1990 al 2005 è diminuita, arrivando alle soglie del 10%, il che significa che il paese è sull'orlo del dissesto ecologico, perché il 10% è considerato del territorio ricoperto di foreste, è considerato un po' il limite massimo dopo il quale il paese sprofonda in una crisi ecologica di più vaste proporzioni. Questo perché? Perché ci preoccupiamo così tanto dell'esistenza delle foreste? Naturalmente non è perché così ci possiamo andare in campeggio o a fare le escursioni, ma perché le foreste hanno un ruolo insostituibile nel nostro ecosistema, nel mondo, nello stesso mondo in cui viviamo. Come prima cosa servono a convertire l'anidride carbonica, che abbiamo visto ha degli effetti così disastrosi, in ossigeno. Come seconda cosa servono a mantenere la fertilità del suolo, perché andate a mettere le mani su ad aprile, a maggio, su un terreno, il terreno che si trova nel sottobosco, vedrete che è umido, vedrete che è pieno di foglie, di arbusti, di sostanze organiche che poi vanno a sciogliersi, a dissolversi nel suolo, a creare quello strato molto, molto utile che serve sia alla coltivazione sia alla nascita di altre piante, e andate a mettere invece la mano su un territorio privo di vegetazione e vedrete che si secca subito, dopo due ore di sole l'acqua evapora tutta, e mentre nel sottobosco l'acqua riesce a filtrare nel terreno, ad andare nella falda acquifera, quel fiume sotterraneo dal quale poi noi prendiamo l'acqua che utilizziamo, perché l'acqua che ci esce dal rubinetto viene presa tramite dei pozzi in queste falde acquifere, che più vengono sfruttate, visto che si rigenerano molto lentamente, e più diminuiscono le loro riserve, la riserva di acqua che ci serve per vivere. Quindi le foreste sono anche importanti per questo. Inoltre sono importanti anche per mantenere, soprattutto nei territori montuosi, collinari, una stabilità del terreno che impedisce le frane quando portate dalle alluvioni, causate dalle alluvioni, quando appunto delle grandi alluvioni si verificano. E non è un caso che noi sentiamo così spesso e sempre di più parlare di alluvioni disastrose, di frane, in Italia come in Sud America e nel resto del mondo, perché la deforestazione ha portato a peggiorare le condizioni nelle quali si trovano queste località montuose o collinari, e quindi appena piove l'acqua si porta giù tutto. Le frane non causano solo disagi, ma portano via anche proprio quello strato di suolo fertile di cui parlavo prima. Quindi le foreste sono semplicemente, per questi aspetti, essenziali per il mantenimento stesso della vita sulla terra. Poi sono utilizzati anche dall'uomo come fonte di legname, che anche questo è indispensabile per la nostra società, però appunto deve essere un utilizzo più coscienzioso del legname, non può essere lo sfruttamento che abbiamo visto avviene ad esempio in Cile, sfruttamento che non è imputabile ai cileni perché vogliono farsi le case di legno, ma perché questo legname viene venduto sul mercato internazionale, ce lo compriamo noi per farci i nostri mobili, che magari cambiamo una volta ogni due anni. Oddio, a me anche volendo non lo potrei fare, però c'è chi lo fa. Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo. In Argentina la riduzione della foresta non avviene per l'industria del legname, è molto limitata qui l'industria del legname, ma purtroppo la deforestazione avviene per far spazio all'agricoltura, per il terreno dove prima c'erano degli alberi viene arato, viene seminato e si producono questi questi prodotti, soprattutto soia, per l'esportazione. Proprio in merito a questo ci sono delle foto impressionanti di appunto territori che negli anni 70 erano foresta verde, vergine, e invece negli anni 90, negli anni 2000 si vedono riempiti di campi, e quelli sono tutti territori che si andranno man mano inaridendo, degradando. Abbiamo spiegato qual è l'importanza delle foreste. Il sentimento cubano, oglielo bien. Infatti questo stesso Atlante ci dice che le attività agricole, forestali, dell'allevamento, comprendono l'80% dell'economia del paese, hanno avuto un impatto drammatico anche sulla rigenerazione dei suoli, privati della protezione delle fronde e delle radici degli alberi e soggette ad un iper sfruttamento. 60 milioni di ettari sono colpiti da processi di erosione del suolo che pregiudicano la loro fertilità. Questa situazione è particolarmente grave nelle zone aride e semiaride, dove la perdita di produttività si traduce nel peggioramento delle condizioni di vita e nell'espulsione della popolazione. Il 24% della popolazione infatti vive in baracche alla periferia della città, e questo è quello che dicevo prima. C'è una grande urbanizzazione, ossia molte persone vanno a vivere in città perché in campagna non c'è modo di mantenersi. Si spera di rimediare ogni tanto qualche lavoretto o di trovare qualche espediente per vivere in città, e quindi si trasferiscono in città, ma spesso vanno a vivere in immense baraccopoli alle periferie di queste megalopoli. E anche per l'Argentina vi sono appunto numerose foto satellitari che potete vedere su questo Atlante, che vi ricordo potete raggiungere su internet, si può scaricare gratuitamente tramite anche il nostro sito comitato carlosfonseca.noblogs.org. Nació en un recorrido dentro de ese viaje circular, en un recorrido por Suecia, y la terminé cerca del río Danubio. Ahora tengo la alegría de cantarla a tan pocos metros del río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de Hormiga. Y azules, con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar. Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. E concludiamo con l'Uruguay, un paese molto più piccolo dei precedenti, con solo 3 milioni di abitanti, ma un territorio poco più grande della metà dell'Italia. Anche qui la situazione forestale è molto grave, ci sono anche le praterie che spesso erano utilizzate come la situazione forestale qui non è molto grave per il rimboschimento che c'è stato, soprattutto per scopi industriali, ma in ogni caso la situazione ambientale è drammatica, perché anche qui il rimboschimento avviene con culture strane all'ecosistema, sempre i soliti pini, eucalipti che abbiamo visto coltivati pure in Cile, e grava ulteriormente sul territorio l'attività agricola e l'allevamento che hanno strappato alla foresta anche qui grandi zone, grandi regioni. In ogni caso la superficie forestale è meno del 10% del territorio dell'Uruguay, che avevamo visto è un po' la soglia critica per una stabilità ambientale, per la stabilità ambientale di un paese. Come dicevo, è comunque aumentata negli ultimi anni la superficie forestale, soprattutto perché sono stati dati molti privilegi fiscali a chi voleva iniziare a piantare alberi per venderne il legname, e eucalipti e pini hanno sostituito terreni prima destinati al pascolo. In ogni caso, come dice lo stesso Atlante, che vi ricordo non è un Atlante scritto da Radio Onda Rossa, ma è un Atlante pubblicato dal Dipartimento per l'Ambiente delle Nazioni Unite, quindi è una fonte che sicuramente non può essere accusata di estremismo politico. Tutti sappiamo chi sono le Nazioni Unite, che sono controllate dai governi dei paesi di tutto il mondo, ma soprattutto dai governi dei paesi che negli ultimi 50 anni hanno dominato la politica e l'economia internazionale, in primis gli Stati Uniti, che sono molto spesso responsabili proprio di questi danni all'ambiente attraverso le loro multinazionali che estraggono minerali, che producono prodotti agricoli da vendere sul mercato internazionale. Todas tus mujeres son dignas de ti. Medellín. Dal 2002, come avevamo notato anche per il Paraguay, l'Argentina e il Brasile qualche mese fa, dal 2002 è iniziato un processo di estensione ed intensificazione agricola caratterizzato dalla coltivazione della soia. Questa soia maledetta che viene prodotta in maniera così impressionante in Sud America, soia che viene venduta per, soprattutto come mangime per il bestiame cinese ed europeo, che poi finisce sulle nostre tavole. Quindi è su quella soglia che si regge il nostro consumo di carne. L'uso di fertilizzanti e pesticidi, l'intensificazione dell'uso del sole e dell'acqua hanno provocato un processo di erosione che ormai interessa il 30% della superficie del paese e l'inquinamento dei corsi d'acqua superficiali e sotterranei. Selvicoltura e monocultura sono inoltre un grave colpo alla biodiversità, quindi alla diversità delle specie animali e vegetali, una diversità che è naturalmente ricchezza, perché ogni animale, ogni pianta si adatta a una determinata nicchia, quindi a un determinato ruolo nell'ecosistema, e quando molti di questi ruoli vengono a mancare l'ecosistema crolla. E non ci dimentichiamo che noi viviamo in questo ecosistema, e se poi aumenta il riscaldamento globale, i terreni si degradano, ci manca l'ossigeno o l'aria inquinata perché c'è troppa anidride carbonica, i primi a rimetterci siamo noi. Il mondo troverà sicuramente un altro equilibrio con o senza l'uomo, però se ci teniamo a continuare a vivere su questa terra, naturalmente questo modello economico va criticato, un modello economico che è capitalista e che non può essere riformato. Il capitalismo si basa proprio su questo sviluppo incontrollato, e quindi non c'è altra strada che l'abbattimento di questo sistema. Oltre ai terreni, sono sfruttati ormai in maniera spropositata anche i mari che si affacciano sulle coste dell'Uruguay, che appunto è bagnato dall'Oceano Atlantico. Se prima del 1970 le risorse ittiche, ossia i pesci, erano sottosfruttati, a partire dagli anni 90 lo sono eccessivamente nel 90% dei casi. Anche i pesci sono una risorsa limitata dalla loro capacità di riproduzione, nel senso che se uno ne pesca troppi non fanno nemmeno in tempo a fare nuovi pesci, e ad alcune specie rischiano l'estinzione. E noi terminiamo qui Latinoamericana, la prima trasmissione dell'anno, e vi salutiamo, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre dalle 17.30 alle 18.30 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ora lasciamo i microfoni di questa radio libera e autogestita, indipendente e autonoma da padroni e partiti al tappabuchi, la trasmissione preparata dall'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la precarietà. Salutiamo tutti e tutte quelle che ci hanno ascoltato, che ci hanno seguito, in particolar modo chi lo ha fatto privato della propria libertà personale.